Mi par che abbiate un'anima di bronzo. Va là che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate co condurla in altra parte. Ma signore, non più repliche. E se poi mi conosce? Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e l'apre qui, giudizio. Ehi, come la vuoi? Vediamo che farà. È brullolio. Dunque creder potrò che i pianti miei abbiano vinto quel cor. Dunque pendeto l'amato Don Giovanni al suo dovere e amor mio ritorna. Sì, carina. Rutile, se sapeste quante lacrime e quanti sospir voi mi costate. Io, vita mia. Voi. Oh, verità, quanto mi dispiace. Mi fuggirete più. No, muso bello. Sarete sempre mio. Sempre. Carissimo. Carissima. La burla mi dà gusto. Mio tesoro. Mia fede. Son per voi tutto fuoco. Io tutto cenere. Bimbo si riscalda. E non mi ingannerete. Lo sicuro. Giuratelo. Lo giura questa mano che bacio con trasporto. E quei bei lumi. Mi sei morto. Al che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste. Oh.